cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Vania Vannucchi è solo l'ultima vittima di quello che molti ancora chiamano amore, che amore non è. È violenza quella che gli uomini rivolgono verso le donne, vittime di persone conosciute, mariti, amanti, fidanzati, sono sempre loro che arrivano ad uccidere, e non in un raptus, come si scrive spesso, ma al culmine di una serie di violenze fisiche e psicologiche. Uomini che troppo spesso non riescono a fare i conti con una separazione, con l'abbandono. Sono più di 60 le donne uccise dal partner in Italia dall'inizio dell'anno. Notizie che non avremmo mai più voluto sentire nei telegiornali. Un altro femminicidio, anzi altri due femminicidi in Italia, e ci sono molte polemiche anche politiche sulla mancanza di fondi. Ne parliamo questa mattina per cercare di capire come possa arginarsi questo problema. Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Ecco, onorevole Fedeli, questa donna era stata già minacciata da quest'uomo, Vania, e poi è stata bruciata viva davanti al suo ospedale, l'ospedale dove lavorava come infermiera, ma ce n'è anche un'altra a Caserta, Rosaria Lentini, che è stata uccisa con 12 coltellate alla schiena dal suo compagno in un camper. Perché avviene tutto questo e come si può arginare? È chiaro che siamo di fronte a un degrado anche mentale di questi uomini, ma come possiamo proteggere queste donne? Beh, intanto aumentando la consapevolezza che il tema dell'uccisione da parte degli uomini, donne che, con cui hanno avuto una relazione, è un tema che riguarda assolutamente tutti, quindi c'è un tema anche di come si comunica e di come se ne parla, quindi ringrazio anche l'interlocutore di questa mattina, ma la ragione di fondo è che ci sono questi uomini che non sono in grado di reggere il rapporto di autonomia e di libertà delle donne. Questo è un tema molto serio che va assolutamente affrontato in diversi ambiti. Il primo ambito, perché credo sia la cosa di maggiore responsabilità, è che le istituzioni devono agire più celermente e più concretamente per contrastare questa violenza. La prima cosa è che dobbiamo sbloccare e finanziare i centri antiviolenza, cioè quei luoghi in cui le donne vanno quando denunciano la violenza. La seconda cosa è che dobbiamo coordinare molto di più i servizi nel territorio, cioè una capacità di coordinare le segnalazioni che possono avvenire da un ospedale, dalla prima denuncia che una ragazza o una donna fa rispetto a diciamo così, a pressioni, a stalking, minacce che sta subendo da parte dell'ex fidanzato, dell'ex marito. Presidente, infatti c'è un... Secondo me questo è un tema molto serio. Prendiamo l'esempio ultimo di Vania. Di Vania, perché l'ex marito carabiniere l'aveva supplicata più volte di fare denuncia. Allora, Presidente, non è invece di dover fare una denuncia di propria spontanea volontà, non si potrebbe intanto cominciare a cambiare il codice e agire d'ufficio per i PM? Sarebbe già più facile, no? Cioè il momento che si sa che questa persona diciamo, ma guardi, su questo però non so come dire. Intanto stiamo parlando di persone, di donne che sono forti, autonome, sono in grado di scegliere. Questa è la mia opinione, perché se stiamo nell'ottica che le donne vanno protette, secondo me non si aiuta le donne a sentirsi libere, perché vengono minacciate perché libere. Cioè, io questo vorrei che fosse chiaro. E a quel punto la libera scelta è quella che le porta a fare la denuncia. Quello che dobbiamo sostenere sicuramente, l'abbiamo già fatto con una legge del 2013, la 119, che inasprisce le pene, che tra l'altro diciamo già non fa interrompere dopo la prima denuncia il fatto che si possa procedere anche di ufficio. Quindi diciamo questi elementi ci sono, poi possiamo discutere, so che si è riaperta la discussione sul fatto di avere un'aggravante di pena per... Sì, l'ha proposto l'ex ministro Mara Carfagna. Non escludo nulla, va bene? Però queste risposte più diciamo di sicurezza diciamo, e di sanzione e di pene non vanno al nocciolo, secondo me, strutturale, che è come costruire una condizione per la quale gli uomini sono in grado di relazionarsi alla libertà delle donne. Questo è il punto. Allora, servono dei servizi immediati, perché dobbiamo guardare anche all'immediatezza. Vania, prendiamo la cosa di Vania. Possibile che anche intorno a Vania, oltre che lei, nessuno si sia fatto carico di sapere che era minacciata da più tempo e quindi in questo senso sì, tutelata con il fatto di allontanare la persona con cui lei aveva avuto questa relazione, che poi l'aveva interrotta. Allora, questo secondo me è un elemento anche di comprensione, di solidarietà e di attenzione che ci deve essere intorno. Poi Vani ha scelto di non fare, come si dice, la denuncia fino in fondo. No, lei aveva segnalato esattamente che veniva minacciata. Il problema è che non ha fatto fino in fondo allontanare la persona. Però il tema rimane quello di come mettere nelle condizioni gli uomini di non arrivare al femminicidio. Sì, ma anche sì, però anche in questo caso, per esempio, Pasquale Russo era sposato, aveva dei figli, quindi lei aveva deciso di lasciarlo perché comunque non aveva un futuro con lui, e questa addirittura l'aggravante maggiore. Poi abbiamo visto una cosa, Presidente, che c'è una recrudescenza sulla violenza, perché ricordiamoci che c'è stata già una ragazza, Sara Di Pietrantonio, uccisa da Vincenzo, bruciata è un simbolo, si rischia poi un effetto emulazione, visto che c'era stata Sara che era stata bruciata, e purtroppo questo assassino, come l'ha definito il presidente del Senato Grasso, Pasquale Russo, va a bruciare Vania davanti all'ospedale dove lavora. Sì, bene, questi sono esattamente i comportamenti di un uomo che decide esattamente che ciò che non è più di tua proprietà, nonostante lui fosse sposato, avesse dei figli, non deve più esistere, va bruciato. Cioè, sono quegli atti simbolici che anche in letteratura e nella storia conosciamo come catartici, proprio come momenti anche di segnale. Però non credo che il tema sia che siccome è avvenuto già un'altra volta, allora adesso c'è un'emulazione da questo punto di vista. Rimane il tema che ci sono gli uomini che vanno educati. Guardi, c'è un tema profondissimo dell'educazione, del rapporto affettivo tra gli uomini e le donne. Questo è, secondo me, il tema più di fondo, perché sennò ci troveremo ogni volta a dover descrivere e commentare femminicidi e a non mettere in campo quello che strutturalmente può contrastarne l'estendersi. Perché io non so se lei ha visto i dati e come vengono anche definiti i dati in Italia su il femminicidio. C'è uno zoccolo appunto duro proprio di femminicidio. Aumentano le denunce da parte delle donne, quindi c'è maggior consapevolezza anche da parte delle donne e delle ragazze nel saper cogliere dall'inizio i primi segnali di un rapporto che non è più o non è mai stato un rapporto d'amore. E questo, diciamo, è un dato importante, perché il primo dato è la consapevolezza e avere gli strumenti da parte delle donne di riconoscere i primi segnali, dei quali poi possono esserci sviluppi molto negativi fino ad arrivare al femminicidio. Ma c'è questo zoccolo duro. Questo zoccolo duro è fatto esattamente di uomini che vivono, crescono e non hanno, diciamo così, anche all'esterno, se vuole, in termini culturali generali, se non recentemente, la sanzione sociale del fatto che le donne non sono proprietà degli uomini. Cioè, io penso che noi dobbiamo agire di più su questo cambiamento strutturale, perché se no, le ripeto, drammaticamente segniamo solo ogni volta la vittima in più, ne descriviamo il contesto, i particolari, ma non affrontiamo il nodo di fondo. Che è l'educazione degli uomini. Io intanto dico ai radioascoltatori che vogliono intervenire 349-238-6666 per i vostri sms o 800-24-0024 per le vostre telefonate. Lei parlava di dati, Presidente, 1740 i femminicidi secondo l'Eures negli ultimi 10 anni, e tra i 16 e 70 anni il 31% è stata picchiata o abusata sessualmente una donna. In Italia sono quasi 7 milioni, da gennaio sono 76 le vittime. Rispondo a Riccardo, che dice che non c'è un particolare fenomeno sull'uccisione delle donne, ma è una diversa percezione dei fatti. Ecco, lei parlava proprio di educare gli uomini. Abbiamo capito che c'è molto da fare in questo. Esattamente, ecco, pensi soltanto un'espressione un'espressione come quella vuol dire che non si coglie il fatto che ci sono gli uomini che uccidono le donne in quanto donne, perché sono state in relazione con loro, e quando una donna decide che quel rapporto è finito, questi uomini non sono in grado, non riescono, perché sono uomini deboli, sono uomini che vivono solo del dominio dell'uomo sulla donna, non sono poi in grado di reggere questo anche lutto affettivo. Guardate, questo è il tema vero, e anche la cosa del fuoco. Io mi rifaccio, secondo me, a uno, ce ne sono tanti di scritti, ma per parlare di uno scritto recente dell'altro giorno sul Corriere della Sera di Dacia Maraini, che anche persino l'utilizzo simbolico, come dicevamo prima, del fuoco è esattamente la punizione, è un segnale di punizione per una donna che ha deciso di non essere più proprietà dell'uomo, cioè il caso di Vania o di... Presidente, la interrompono perché Luciano ci chiede, la vostra ospite però non ci dà soluzioni concrete, quindi adesso sarà la prima domanda. Poi alcuni uomini, giustamente, questo mi fa molto piacere, questo sms, non gli uomini, basta con queste generalizzazioni, e abbiamo visto il presidente Pietro Grasso, che è un uomo, ha detto sono assassini, come dice Patrizio, ma vanno protette le donne e gli uomini puniti, non si può educare un pazzo. Ecco, quali sono però le proposte? Noi abbiamo visto da parte del PD, perché abbiamo visto che la Boschi, il ministro Maria Elena Boschi, ministro anche per le pari opportunità, aprirà un tavolo a settembre, ma lei ha detto bisogna educare gli uomini, allora ci dia una proposta di legge, allora, che cosa volete concretamente fare? Allora, intanto dobbiamo dire che in Italia dal 2013 abbiamo gli strumenti, abbiamo un piano antiviolenza che vuol dire avere i centri, i luoghi concreti in cui le donne si possono rivolgere, questo è un punto concreto. Però avete tagliato i fondi a questi... No, non abbiamo tagliato i fondi, questa è un'informazione impropria. Abbiamo finanziato i centri, io sono tra quelle che dice che vanno ulteriormente finanziati, e questi fondi vanno rapidamente messi in circolo, perché i fondi ci sono, vanno rapidamente messi in circolo, e le regioni e gli enti locali messi nella condizione di agire rapidamente. Questa è la cosa più concreta, ma non è che partiamo da zero, non è che la cosa nasce da oggi, ci sono da anni che stiamo operando in questo senso. Seconda cosa, abbiamo anche recentemente, guardi, un punto importante che nessuno conosce concretamente, nell'ultima legge di stabilità, in particolare con il Jobs Act, abbiamo finanziato, non ce l'aveva chiesto nessuno, ma per farle capire la nostra attenzione concreta, 3 mesi retribuite, perché c'è un tema che riguarda anche quando una donna subisce violenza e sta in un luogo di lavoro, non erano previsti strumenti per cui lei si potesse allontanare per il periodo, diciamo, in cui può essere tutelata dall'aggressore, dal luogo di lavoro, se no perdeva il lavoro, quindi pensi quanta difficoltà. Bene, abbiamo inserito nella Jobs Act che per 3 mesi, retribuita con il suo stipendio, ovviamente a carico dello Stato, questa donna si può allontanare dal lavoro, retribuita, quindi senza perdere il lavoro. Anche questo, guardi, è un punto molto concreto per chi conosce e sta dentro quotidianamente e conosce l'esperienza, anche questo è un punto importante. Terzo punto importante, che si stanno costruendo concretamente in alcuni luoghi, penso al Lazio, ma penso alle Marche, penso alla Toscana in particolare, anche a coordinare gli interventi tra ospedali, comuni, polizia, cioè il fatto che appena uno di questi centri pubblici, diciamo così, quindi di istituzioni pubbliche locali, riceve una segnalazione, si mette in raccordo con gli altri, perché così si interviene proprio sulla persona, sulla tipologia specifica, per sottrarre la donna a eventuali sviluppi ulteriormente negativi rispetto allo stalking e alla violenza. C'è di più, dal punto di vista della prevenzione, non a caso nella cosiddetta buona scuola abbiamo inserito un comma che è esattamente quello dell'offerta formativa per l'educazione al rispetto delle differenze di genere per contrastare la violenza. Non era mai successo. Le dico anche che questa cosa dovrà avere rapidamente, e secondo me su questo lo dico, c'è un ritardo oggettivamente del Ministero della Pubblica Istruzione, che deve emanare le linee guida in modo tale che da settembre in tutte le scuole di ordine e grado, con la loro specifica condizione, si possa avviare il processo formativo, educativo e culturale esattamente per contrastare questo fenomeno. Allora, perché ha ragione, sì, perché dobbiamo dare, se ci attende un attimo, linea alla regia e ritorniamo tra poco. Ma cos'è quest'estate? E io saluto intanto Giulia, buongiorno, avvocato ed ex parlamentare. Le chiedo un attimo di pazienza perché Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato PD, ci deve lasciare. Stava dicendo Volevo solo concludere su questa cosa. Il femminicidio non è fatto da un uomo che è pazzo, non è un raptus, non è un momento di gelosia, non è un momento di stress. Lo dico perché se continuiamo a definire in questo modo questo fenomeno, noi non riusciamo invece ad affrontarlo radicalmente. Questo ci tenevo a dirlo, sono uomini che non sanno misurarsi con la libertà e l'autonomia femminile. Guardi, è una guerra alla libertà delle donne, all'autonomia delle donne. Ci tenevo a dirlo e vi ringrazio molto. Ringraziamo allora Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato. Buongiorno a Giulia, buongiorno, avvocato ed ex parlamentare di Alleanza Nazionale. E le dico subito, avvocato, buongiorno, che ci sono alcuni radioascoltatori, per esempio Andrea da Bologna, che dice: la verità è che se una donna è minacciata di morte va dai carabinieri, questi ne dicono che non possono farci nulla se non va a parlare con il soggetto a rischio di aggravare la situazione. Lei, nella sua esperienza, è così? Guardi, devo dare ragione, sebbene parzialmente, al suo interlocutore, all'ascoltatore, nel senso che io credo che in Italia esistano da un lato dei pool specializzati e quindi che riescono subito a capire quando una denuncia è urgente, ma purtroppo in altre zone d'Italia questo non avviene ed è verissimo che noi anche a doppia difesa abbiamo delle donne che ci dicono: noi andiamo a denunziare ma se non abbiamo il sangue non veniamo credute e diventiamo una pratica su una scrivania in attesa di essere uccise. Questo significa che è necessario sensibilizzare forze dell'ordine, magistratura, per far comprendere che serve una specializzazione, perché ovvio ci sono anche delle denunzie che sono delle denunzie isteriche, ma alcune denunzie invece sono urla di aiuto, richieste di aiuto, e allora una donna deve sapere che se seriamente chiede aiuto l'intervento deve essere immediato e in tutta la penisola. Cioè non può avvenire solo in alcune regioni. Quali sono quelle, quali sono le regioni che reagiscono subito e quelle che reagiscono meno? Non mi dica che nord-sud ancora è così distinta la questione. Guardi, le posso dire che dai dati che abbiamo nel nostro osservatorio di doppia difesa esiste questa differenza, nel senso che soprattutto ad esempio a Milano ci sono dei pool specializzati, ma anche a Roma. Nel sud c'è più resistenza, perché ancora c'è una mentalità di tipo paternalistico, cioè cerca in qualche modo di fare pace con tuo marito. Però attenzione, anche al nord abbiamo realtà del genere, non farei solo un discorso diciamo di nord e sud, può capitare forse più al sud che al nord, ma noto che nei centri come Milano, Roma, nelle grandi città c'è forse una maggiore capacità di selezionare le denunzie veramente importanti. Guardi, onorevole, buongiorno, avvocato, ci dicono alcuni uomini, ma non è vero che sono solo gli uomini ad essere aggressivi o ad essere violenti, ci sono anche molte donne che fanno violenza a noi, ecco, quindi la mentalità va un po' cambiata, perché non si riesce a capire che un conto è magari essere soggetti anche a mobbing per un capodonna, come tutte le donne magari possono essere soggette a mobbing con un capo uomo, no? Per dire. E non si riesce a capire dov'è poi la linea che va tracciata, tant'è vero che c'è un Massimiliano di Nocera Inferiore che dice: solo un folle può considerare una donna proprietà, e bisogna però che ci sia che si educhino i giovani, che ci sia un processo formativo anche per le mamme che devono crescere i figli e far capire che devono accettare le sconfitte. Ecco, questa cosa ritorna in vari radioascoltatori. Silvano anche dice: sono le madri che educano male i figli maschi, insomma è sempre colpa delle donne. Comunque allora io non do né attenuanti né giustificazioni a chi fa violenza a una donna, quindi io escludo di poter trovare possibilità di attenuare la gravità dei fatti dando la colpa a qualcuno. Dopodiché, se dobbiamo parlare di prevenzione. È chiaro che è molto importante sia a livello delle scuole sia a livello delle famiglie che ci sia maggiore attenzione a quella che è l'educazione del figlio. Io dico sempre che persino nelle scuole sarebbe necessaria un'educazione di parità di genere e mi sento rispondere: ma qui si potrebbero poi creare problemi, magari viene il figlio omosessuale. Non c'entra niente, il problema è la diversità dei ruoli, una cosa è la diversità del sesso. A casa deve poter fare le stesse cose un uomo come una donna, i giochi devono scambiarseli. Detto questo, fenomeni di violenza delle donne nei confronti degli uomini non solo sono statisticamente molto molto molto esigui rispetto ai numeri che abbiamo per gli uomini, ma poi da un punto di vista storico e da un punto di vista proprio di osservazione quotidiana, gli uomini anche per un fatto fisico sono sempre quelli che hanno certo. La sopraffazione, quindi diciamo escludiamo questo fatto che anche le donne sono violente, non ci sto a questo tipo di ipotesi. Avvocato Vania, in questo caso Vania Vannucchi, non aveva denunciato questo prima stalker e poi assassino. Per lei bisognerebbe procedere d'ufficio, basta con queste denunce, o magari può denunciare qualcuno come l'ex marito che era carabiniere, può denunciare al posto della donna che viene stalkizzata e che magari ha paura? Allora, la donna che viene stalkizzata fa un errore che temo sia stato fatto anche in questo caso e se le donne ci stanno ascoltando in questo momento, io vorrei fare proprio un appello a tutte le donne. I famosi appuntamenti con gli ex sono spesso teatro di tragedia, cioè la donna, siccome è troppo buona, a volte accetta di andare al cosiddetto ultimo appuntamento. Come è successo in quest'ultimo caso, che è stata poi è stato fissato un appuntamento, che ne so, per una restituzione del telefonino. Perché le donne vanno? Perché comunque si sentono magari in colpa per avere scelto di non proseguire un rapporto. Allora l'appello è questo: non siete in colpa, non c'è colpa, la vostra libertà, la vostra autonomia vale tantissimo, ma non andate all'ultimo appuntamento, perché l'ultimo appuntamento non serve a niente. Detto questo, io sono dell'idea che se ci sono delle situazioni di pericolo concreto di cui si avvede un familiare, si deve, si può denunziare. È chiaro che noi possiamo fare questo appello se poi abbiamo da parte delle persone che ricevono la denuncia una reazione immediata, per cui serve anche creare una sorta di corsia preferenziale per le denunzie, perché a volte queste denunzie giacciono e allora un corpo di norme specifiche che tutelino le donne adesso si deve creare. Andrea da Udine ci scrive: le forze dell'ordine dicono che non possono fare nulla, gli avvocati non fanno nulla per difendere una donna sottoposta a stalking, sono testimone di quello che sta vivendo mia sorella. Ne parliamo anche, oltre con l'avvocato Buongiorno, con Oria Gargano, presidente della cooperativa Be Free, cooperativa che gestisce il centro comunale antiviolenza a Roma di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, che ricordiamo furono vittime di un femminicidio molti anni fa in una villa del Circeo. Buongiorno Oria. Buongiorno a voi. Allora, che cosa succede? È vero che per esempio non vi arrivano i fondi e che potreste chiudere, che non c'è abbastanza attenzione, cioè che i politici parlano ma poi nella vita reale siete lasciati un po' a voi stesse? Ma insomma, a livello nazionale ci sono molte sfumature di questo assioma che lei ha appena detto. Per quanto riguarda Be Free, che non gestisce soltanto questo centro antiviolenza ma molti sì. altri servizi, case rifugio sul territorio nazionale, quello che è successo a Roma è tutto un po' ascrivibile, a dire la verità, al periodo del commissariamento, al periodo del dottor Tronca. Perché molto banalmente, e le dico questo per capire come poi le tragedie, perché non trovare più un servizio per una donna può essere una tragedia, come abbiamo appena detto, nascono spesso da questioni burocratiche, da inadempienze e non possiamo dire da una volontà maligna di chiudere le cose. Dico questo perché in realtà noi gestivamo anche un altro servizio del comune, SS Donna H24, che era un servizio piuttosto importante e in qualche maniera anche anomalo, perché non aveva residenzialità. Era soltanto quindi un centro, perché con la nuova nomenclatura che deriva sia dalla Convenzione di Istanbul ma anche dal piano straordinario italiano violenza, e su questo poi magari vorrei dire qualcosa contestando l'aggettivo straordinario per questo piano, perché la violenza non è straordinaria, la violenza è sistemica ed un piano non può essere straordinario, ma deve mettere a tema e in ordine e in maniera olistica tutte le questioni, tutte le articolazioni dello Stato, tutti i servizi sociali e del privato sociale per combatterla. Comunque, scusa la digressione, questo servizio... Ecco, pronto? Che cosa fate e quante donne vengono questo da voi? Questo servizio SS Donna H24 faceva qualcosa di abbastanza straordinario, nel senso che riceveva molte donne tutti i giorni, che ricevevano naturalmente la consulenza psicologica, socioeducativa, psicoeducativa, legale, assistenza legale, consulenza legale, tutto in maniera gratuita, e dal 2011 aveva seguito 1950 donne. Io vorrei anche subito dire una cosa: non è che le donne vittime di violenza debbono tutte scappare in una casa rifugio, oltretutto assolutamente non ci sarebbe proprio il posto, come posti noi siamo a neanche un decimo in tutta Italia rispetto a quelli che ci dice il Consiglio d'Europa. Le donne debbono anche poter utilizzare degli strumenti, come per esempio l'ordine di allontanamento, che se ben fatto, se ben monitorato dalle forze dell'ordine, funziona, e quindi è l'uomo violento che se ne va e non più le donne e i bambini che debbono scappare come se fossero colpevoli di chissà che in un centro casa rifugio. La interrompo un attimo, perché poi riprendiamo questo argomento, perché l'onorevole Bongiorno, l'avvocato ex parlamentare, deve scappare. Avvocato Bongiorno, oggi Mara Carfagna dice sia l'aggravante per l'omicidio di genere. Lei come avvocato che cosa ne pensa? E poi nella sua esperienza è vero che i centri antiviolenza, come scrive oggi il giornale, sono in ginocchio, mancano i fondi? Basserà questa cabina di regia a settembre del ministro Maria Elena Boschi? Allora, per quanto concerne il tema della Carfagna, le dico subito che io, quando ero in Parlamento, a mia firma ho presentato una proposta di legge unitamente proprio alla Carfagna, in cui chiedevamo che il femminicidio fosse un aggravante. Siccome prima il femminicidio era una attenuante, fino al 1981 gli omicidi per causa d'onore erano considerati omicidi minori, perché si diceva c'è la giustificazione della gelosia. È stata eliminata l'attenuante, adesso è considerato un omicidio normale. Invece io reputo, e ho scritto in questo senso una legge, che chi uccide una donna per gelosia debba avere una specifica aggravante, la cui conseguenza è fine pena mai, basta con le pene svuotate, basta con le attenuanti. Per quanto riguarda i centri antiviolenza, quello che le dico è che io quello che noto è che non c'è un'adeguata attenzione a questo fenomeno, perché basta pensare che non esiste un ministero delle pari opportunità. L'altra faccia della medaglia della violenza e la discriminazione, è stato abolito il Ministero delle Pari Opportunità. A me non importa se qualcuno ha una delega che non si capisce nemmeno se è una delega effettiva, quella della Boschio, deve arrivare, ma io non ho sentito una presa di posizione forte. Io voglio un Ministero delle Pari Opportunità e contro le violenze. Voglio che tutti i centri antiviolenza, quelli che lavorano sul territorio, diano il massimo, quindi lei vuole la possibilità di farlo. Un ministero addirittura con il portafoglio. Spieghiamo ai radioascoltatori questo termine tecnico, sì, che vuol dire, cioè, il ministro non senza il ministero strapuntino. Il ministro senza portafoglio non ha un ministero, ha un dipartimento. Mentre lei dice occorre proprio un ministero fisico dove ci vanno tutti i centri antiviolenza e tutti gli operatori si incontrano lì. Grazie quindi, onorevole ex parlamentare Giulia Bongiorno, avvocato. E abbiamo sentito anche quello che potrebbero essere le soluzioni per arginare questo fenomeno. Molti vostri sms, il 349-238-6666, ci scrive Giacomo, dice: ma io sono stato minacciato e aggredito dalla mia ex moglie, ma non è successo niente. Alcuni dicono: ma allora tutte le donne sono buone? Abbiamo sentito anche l'avvocato Bongiorno e noi rispondiamo ovviamente il buono e il cattivo esiste in tutti i generi, però qui c'è un problema di numeri. Li ricordiamo: 1740 donne uccise in 10 anni. Allora, Oria Gargano, ricordando quello che successe poi a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, no? Che fu emblematico il delitto del Circeo, nella sua esperienza come operatrice, quali, visto che lei ha ospitato quasi 2000 donne nel suo centro, quali sono le caratteristiche ricorrenti di questi stalking e di queste violenze nella coppia o all'interno di una relazione malata? La realtà è che non si può fare una profilatura, che non ci sono dati ricorrenti. La realtà è che la violenza contro le donne nella relazione intima, perché noi di questo stiamo parlando, si tinge di moltissime sfumature. In realtà tutto nasce da una banalissima, nel senso di comune, relazione d'amore. E lì c'è l'incontro di due individui che cominciano una storia, cosa che chiunque di noi può capire. La violenza vi si intrufola piano piano. Io in tutti questi anni ho veramente ascoltato migliaia di donne, io non ne ho mai sentita una raccontare: lui mi ha fatto la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, tutti i santi giorni, tutti i santi momenti da quando l'ho conosciuto. Perché nel qual caso uno potrebbe anche pensare che forse la signora, come dire, non ha avuto la forza di lasciare una situazione così pericolosa e critica. La realtà è che non è così. La realtà è che lui comincia, per esempio, ad essere geloso, ma noi, e ne parlavate poc'anzi, siamo in un contesto in cui la gelosia è ancora considerata non un'espressione di possesso e malata, ma una, come dire, una dichiarazione d'amore, una dimostrazione di quella donna ti piace, insomma, e quindi la donna lo subisce. Le donne sono tutte cresciute in questo sistema, c'è una cultura che è entrata nel profondo degli uomini e delle donne, per cui la supremazia dell'uomo, il diritto dell'uomo di dire l'ultima parola e di essere, come dire, il vettore delle questioni familiari è stato introiettato fin dalle famiglie d'origine, fin dai libri che le bambine hanno letto, che le ragazze hanno letto, fin dalle canzoni, fin dai film, ed è evidente che questo crea un humus molto favorevole a che la violenza non solo si insinui nella coppia, ma soprattutto non sia riconosciuta. Noi abbiamo donne che sono sposate con rettori, con chirurghi di fama, donne che loro stesse sono delle docenti, così come abbiamo delle donne molto più smarrite. Quindi il quadro è molto variegato. Marco Strano, presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, e anche criminologo. Abbiamo sentito Oria Gargano che ci dice: la violenza si insinua piano piano, è così? Sì, diciamo che la violenza, questo tipo di violenza, è fortemente radicata a un modello culturale, su questo ormai non ci sono dubbi, e sicuramente si insinua piano piano. Consideri, per esempio, come centro studi, quello che cerchiamo di fare, no, di studiare, sono sistemi per consentire alle donne di poter dimostrare che stanno subendo realmente violenza. Quindi noi ci siamo ritagliati un settore di studio che crediamo possa essere utile a queste vittime, no? Perché molto spesso i processi in questo settore poi fanno una brutta fine, perché i processi si basano sulle prove, no? Non si basano sulle chiacchiere o semplicemente sulle dichiarazioni, e ci siamo resi conto effettivamente che c'è una certa sottostima anche da parte delle donne di certi segnali e di certi comportamenti. Per esempio, un elemento che influenza molto tutto ciò sono le varie famiglie di origine, le varie famiglie, cioè le famiglie che magari mal sopportano che un legame, no, una storia all'interno del loro circuito possa prendere una brutta strada. Fanno quelle che si chiamano pratiche di normalizzazione, cioè tendono, insomma, a fare in modo che si risolva la cosa in maniera bonaria, no? Ecco, quindi è veramente una situazione criminologica, quindi una serie di crimini dalla violenza fino all'omicidio, fortemente inserita in un aspetto culturale che la influenza. Quindi questo è il grosso problema. Lei dice quindi anche all'interno di questo assassino potenziale ha una famiglia, quindi il momento in cui si vede che c'è qualcosa che comincia a non andare, si cerca di dire va bene, va tutto bene, invece non è così, bisognerebbe cominciare ad alzare le antenne. Ma in realtà anche la famiglia della donna a volte ha un atteggiamento così, come dire, per tentare di lavare i pannetti sporchi in famiglia, ecco, come si dice, quindi magari consigliano alla loro figlia, in questo caso se sono i genitori, ah vabbè, ma insomma cerca di risolvere il problema in altro modo, poi tutti sanno. Ecco, intanto abbiamo sentito, è saltata la linea, Gemma ci scrive, più che fine pena mai, meglio una pena anche breve ma certa ed immediata, senza sospensioni, condizionali o sconti. Quindi questo qui, carcere subito anche se per poco. Potrebbe anche funzionare a questo punto la funzione rieducativa della pena. E abbiamo con noi Stefano Sgrazzutti, presidente dell'Associazione Nazionale Krav Maga, che è una tecnica di autodifesa israeliana e che sta prendendo anche piede proprio tra le donne per arginare la violenza. Stefano Sgrazzutti, da chi viene da lei? Sì, buongiorno. Allora, da noi prevalentemente il corso vengono donne. A differenza di 10 anni fa, in cui la maggioranza dei partecipanti erano uomini, in questi ultimi anni invece diciamo che si è capovolta un po' la situazione. La maggior parte dei partecipanti a questi corsi sono donne per quanto riguarda i corsi misti. Poi noi abbiamo dei corsi specifici per quanto riguarda la difesa femminile dove appunto le partecipanti sono donne. In questi corsi diciamo che si fa un lavoro non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Infatti i nostri corsi sono finalizzati per mettere la nostra allieva in grado di difendersi con la massima efficacia da quelli che sono i principali tipi di aggressioni che purtroppo milioni di donne subiscono nel mondo. Questa tecnica, sì. Il momento che io vengo a fare un corso da lei e poi sì. Effettivamente ho una persona che mi aggredisce per strada ed è un uomo che è il doppio di me, io riesco a metterlo a terra? Esistono delle tecniche specifiche appunto per le donne che consentono di colpire punti vitali e punti sensibili, quindi diciamo che logicamente ci sono degli aspetti fondamentali su cui lavorare, l'atteggiamento mentale, cioè prima di tutto avere la consapevolezza della persona che si ha di fronte, c'è anche un lavoro psicologico, non solo fisico, la fisicità deve essere l'ultimo strumento in cui dobbiamo utilizzare, prima di tutto c'è tutta la gestione psicologica, quindi riuscire attraverso dei comportamenti verbali, dei comportamenti corporei, cercare di sedare quella che può essere una situazione sicuramente di pericolo. Dopodiché se per forza si è costretti a doversi difendere, allora in quel caso bisogna per forza essere consapevoli che la situazione va risolta colpendo. E lei dice che con questi colpi si mette a terra un uomo o una donna, o un'altra donna, magari una donna subisce violenza da un'altra donna, per dire. Rapido perché siamo in chiusura. Ok. Vabbè, ci sono delle statistiche che dicono che allora nell'80% delle aggressioni in cui una donna è stata sottoposta, più che altro dal punto di vista sessuale in questo caso, nell'80% di questi casi il 90% c'è stata una reazione decisiva positiva ed è stato scongiurato dell'aggressione. Quindi sono statistiche. Sono statistiche. Allora, un radioascoltatore fa un po' di ironia, lo scopo non è metterlo a terra ma renderlo inoffensiva, attenzione, troppi film di Bruce Lee. Un altro radioascoltatore ci dice pena breve e immediata dopo 6 mesi, come diceva Gemma, no, perché altrimenti rimandiamo l'assassino in giro o il presunto assassino. Marco Strano, presidente criminologo, l'ultima domanda, proprio 30 secondi. C'è un effetto emulazione, visto che Sara era stata uccisa, bruciata, e adesso c'è purtroppo Vania che viene anche bruciata? Ma in questo tipo di crimine, che è un crimine dove l'assassino, fa qualcosa per la sua soddisfazione, no? Per cercare di ridurre la frustrazione, l'effetto emulazione non credo che sia che sia fondamentale. È sicuramente l'aspetto di bruciare un elemento simbolico molto forte, vuol dire tentare di distruggere anche l'immagine di quella che in qualche modo era il suo desiderio fondamentale. Quindi credo che sia più un problema simbolico il bruciare la propria vittima, ha sicuramente certi significati. Mi permetto di aggiungere una breve considerazione sull'inasprimento delle pene. È d'accordo? Mi dica sì o no, perché siamo in chiusura? Allora, sono d'accordo, ma non è fondamentale, perché molti di questi assassini poi si uccidono dopo aver ucciso le donne, quindi con quelli sicuramente il timore di una pena maggiore non funzionerebbe, ci vuole qualcos'altro. Linea al GR. Ma cos'è quest'estate? E noi passiamo ad un altro argomento, passiamo all'allarme meningite che è successo quest'estate per la ragazza Susanna Ruffi, morta alla giornata mondiale, dopo aver partecipato alla giornata mondiale della gioventù. Ma parliamo anche, ampliando il tema, sui vaccini, sulla possibilità di vaccinarsi, quando è giusto, quando invece non è giusto farlo. Vi invitiamo a intervenire, il nostro numero verde è 800 24 00 24, oppure a darci i vostri sms 349 238 6666. Stava rientrando in Italia, è morta a Vienna per una meningite fulminante, la giovane pellegrina che era andata in Polonia con la parrocchia. A darne notizia la Conferenza Episcopale Italiana. Per la CEI tutti i membri del gruppo di cui faceva parte la ragazza sono stati sottoposti a profilassi. Un'altra giovane dello stesso gruppo e che ha effettuato la profilassi ha avuto un malore ed è stata sottoposta degli esami all'ospedale di Udine. La ragazza uccisa dalla malattia era transitata per Casa Italia, il quartiere generale dei cattolici italiani a Cracovia. Ecco, parliamo quindi di Susanna Ruffi, la ragazza romana morta di meningite e che era stata poi in vacanza a Punta Ala. Allora, Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università di Tor Vergata di Roma e presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Che cosa è successo in questo caso? È un caso limite? Si può prevedere o la meningite ha poi degli effetti che sembrano una febbre alta? Ma guardi, dunque, un po' di domande mi ha fatte tutte insieme, diciamo. Ovviamente quello che è successo è che quando ci sono dei grandi assembramenti di persone, se ho letto sui giornali si parlava di circa 1 milione di persone, di giovani ragazzi tutti insieme, in queste occasioni la possibilità che circoli il meningococco e quindi ci siano dei casi di meningite purtroppo deve essere messa in qualche modo quasi, diciamo, data per certa, diciamo, ecco, perché effettivamente tenga presente che in Italia ogni anno ci sono circa 3 casi per milione e riguardano soprattutto bambini e giovani, quindi che in una situazione come quella che abbiamo descritto precedentemente ci sia stato un caso purtroppo non è un fatto del tutto eccezionale. Prevenire? Sì, certamente sì, la meningite si può prevenire, esistono dei vaccini assolutamente efficaci, nei casi in cui ci sia, così come è accaduto, un primo caso si possono profilassare tutti gli altri giovani che siano venuti però a strettissimo contatto con il caso di meningite, anche attraverso l'uso di antibiotici, quindi non solo con il vaccino. Quindi la meningite si cura anche con un normale antibiotico e magari anche facile per i ragazzi che erano in questo campeggio a Punta Ala, oppure per chi era con questa ragazza poter prevenire senza incorrere in chissà che cosa? Sì, diciamo, si può profilassare con facilità la meningite, come dicevo, assumendo eventualmente un antibiotico laddove ci sia stato un contatto stretto. Curare la meningite è purtroppo un pochino più difficile, perché gli stessi antibiotici così efficaci nella profilassi purtroppo in alcuni casi, quando la meningite ormai è scoppiata, è molto più complesso riuscire a curarla, per cui ci sono dei casi che comunque vanno incontro a morte anche se la terapia è corretta. E da qui, diciamo, il consiglio di iniziare immediatamente il trattamento laddove esista il sospetto che si tratti di una meningite. cioè e laddove magari c'è stato il contatto. Nino ci dice: com'è trasmissibile la meningite? Ce lo domanda. Dunque, la meningite si trasmette per via aerea, quindi attraverso quelle goccioline di saliva che escono fuori quando noi parliamo, quindi serve un contatto molto ravvicinato perché queste goccioline riescono a fare pochissimi metri, quindi l'eventuale profilassi deve essere fatta solo per quelle persone che sono state estremamente vicine alla persona che ha avuto la meningite. Non esiste nessun rischio per le persone che hanno magari anche soggiornato in luoghi vicini alla persona ma non a strettissimo contatto. Professore, abbiamo visto il ministro Lorenzin ieri dichiarare, il ministro della salute, che i vaccini sono l'arma di difesa. Ora, rispetto al caso specifico, a quanto si capisce è stata quello che purtroppo si dice una disgrazia, ma quanto poi incidono i vaccini in Italia? Perché c'è da un po' di tempo una tendenza a dire no, fanno male, possono provocare delle altre malattie, e quindi abbiamo visto anche il caso della bambina morta di pertosse perché i genitori non l'avevano vaccinata. Ma guardi, quando succedono questi fatti nuovamente si dice i vaccini, e ci si dimentica dei vaccini quando purtroppo non ci sono nella cronaca dei casi così drammatici. I vaccini sono un'arma eccezionale, riescono a contrastare malattie gravissime e la meningite ne è un esempio, quindi sicuramente devono essere fatti. La presa di posizione recente dell'Ordine dei Medici, che in qualche modo minaccia di gravissime sanzioni anche fino alla radiazione medici che non consigliano i vaccini, anche la nostra Società Italiana di Malattie Infettive ha fatto un comunicato molto duro nei confronti di queste persone. Io credo che queste occasioni devono servire a ricordare a noi tutti che con i vaccini si salvano ogni anno milioni di persone, perché i vaccini possono essere fatti contro tante malattie, alcune terribili come la meningite, perché hanno una mortalità molto alta, circa una persona su 10 colpita da meningite purtroppo muore, ma anche contro malattie che riteniamo banali come il morbillo, come la pertosse che lei ha ricordato, malattie che colpiscono tante persone, e tra le tante persone che vengono colpite ci sono sempre dei casi mortali, quindi i vaccini devono essere assolutamente consigliati a tutti. Professore, resti con noi perché c'è in linea l'assessore regionale alla salute della Regione Sicilia, Baldo Gucciardi. C'è stato un allarme in Sicilia, proprio nei pub della Movida siciliana, e la Regione ha istituito il vaccino gratuito per i giovani fino a 30 anni. Cosa è successo a Palermo? Buongiorno. A Palermo è successo un allarme perché nell'arco di un paio di mesi è morta una ragazza più o meno di 24 anni e poi successivamente c'è stato un altro caso, per fortuna non mortale, di meningite. Si è determinato un allarme, siamo in un periodo in cui probabilmente, secondo gli esperti, la diffusione soprattutto nei locali chiusi può essere davvero pericolosa del meningococco. Allora abbiamo pensato, in una fascia di giovani a rischio, di giovani adulti tra i 18 e i 24 anni, di concedere gratuitamente il vaccino contro la meningite. Riteniamo di aver fatto una cosa giusta e soprattutto abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione per le vaccinazioni, che noi riteniamo assolutamente indispensabili per combattere malattie importanti e soprattutto casi di morte che potrebbero essere evitate con un'attenzione maggiore sulle vaccinazioni. Ecco, erano stati due i giovani contagiati. Quanto costa, assessore, un vaccino? E adesso voi lo date gratis per i giovani fino a 30 anni, ma quanto costa? Perché poi anche a livello di sanità regionale avete dovuto sostenere questi costi. Sì, ma non è un costo assolutamente rilevante. Peraltro il vaccino viene concesso, quando non è gratuito, con un ticket di circa 30 euro, quindi l'incidenza, non abbiamo fatto un calcolo preciso perché non sappiamo quale sarà la risposta dei giovani, anche se ci sono state tantissime telefonate e tantissima attenzione già in questi primissimi giorni dopo che ho adottato il provvedimento della vaccinazione gratuita, ma i costi in questo senso sono assolutamente sopportabili e il rapporto fra costo e beneficio non è assolutamente paragonabile. In ogni caso, ripeto, il costo del vaccino per questa fascia di giovani è assolutamente rilevante. Professore, Carlo ci chiede, io e mia figlia andiamo in campeggio a Puntala, dove appunto era andata la ragazza morta poi dopo la giornata mondiale della gioventù. Dobbiamo prendere il vaccino? Ma no, per il fatto di andare in campeggio a Puntala, anche se in Toscana, come sappiamo, c'è stata, diciamo, in quest'ultimo anno e mezzo una maggiore circolazione di meningococco C che ha determinato un ceppo particolarmente virulento, particolarmente aggressivo, che ha determinato alcune decine di morti, non è di per sé stessa necessaria la vaccinazione. Poi, diciamo, il campeggio per definizione è un posto all'aria aperta, no? L'assessore ricordava giustamente come nel caso siciliano la frequentazione di un pub e anche nei casi toscani siano stati spesso degli ambienti chiusi in cui erano presenti tantissimi ragazzi a determinare poi dei piccoli focolai epidemici. Quindi il campeggio di per sé stesso certamente no, e l'andare a Puntala certamente non deve creare allarmismo. Rimane utile, rimane intelligente quello che è stato fatto in Sicilia, cioè che comunque si colga l'occasione di anche singoli casi per risensibilizzare la popolazione alla vaccinazione e spingere soprattutto i giovani. Bisogna ricordare che il meningococco circola in modo particolare ed è particolarmente aggressivo nei bambini più piccoli, nei primissimi anni di vita, e poi nei giovani adulti. Quindi queste sono le categorie più colpite. Quindi sensibilizzare la popolazione in questo senso è sempre utile. Professore, lei ha parlato giustamente di meningite. Come si riesce a capire che è una meningite e non è una semplice influenza? Ci sono delle possibilità di comprendere, di fare una diagnosi precoce? Ma guardi, i sintomi più comuni e che in qualche modo devono far insospettire sia i familiari che il malato stesso e i medici ovviamente sono la febbre alta, il mal di testa e spesso un vomito che è un vomito incoercibile, cioè non è il vomito legato al mal di stomaco, al senso di nausea, un vomito improvviso. Ecco, questi sintomi sono i sintomi che devono lasciar pensare a una possibile meningite. E di fronte a questi sintomi conviene sempre sentire il medico o recarsi in un ospedale per essere in qualche modo rassicurati. Giusy Spica, giornalista di Repubblica Palermo, che ti sei proprio occupata di questi due casi in città. Una di queste persone è morta e l'altra è sopravvissuta, giusto? Esattamente, la prima ragazza 24enne, originaria di Belmonte Mezzagno, un paesino vicino Palermo, è morta dopo tre giorni all'insorgere dei sintomi. La ragazza la sera prima aveva frequentato la sera prima del malore aveva frequentato dei pub della Movida e quindi è subito scattato l'allarme da parte dell'ASL, l'azienda sanitaria locale, che ha avvisato i gestori dei pub dove la ragazza era stata la sera precedente. Di lì è partito un tantam anche sui social network, che i gestori dei pub hanno dato la comunicazione su Facebook ed è scattata anche una forma di psicosi tra i ragazzi che avevano frequentato i due locali. Il giorno dopo i centri di vaccinazione sono stati subissati alle telefonate. La stessa cosa è avvenuta per il secondo caso, che fortunatamente, appunto, come spiegava anche l'assessore Gucciardi, non è stato fatale. Peraltro si trattava di un ceppo diverso di meningococco. Nel primo caso, quello mortale, si è trattato di una forma di sepsi dovuta a meningococco di tipo C. Nel secondo caso, invece, il ceppo era di tipo B, che in genere colpisce i bambini più piccoli. Fortunatamente però la ragazza si è salvata. Anche lei aveva frequentato, stavolta da addetta ai lavori, i pub della Movida. Era cameriera in due pub, una ragazza di 22 anni, giovanissima. Anche lì, appunto, è scattata la solita trafila da parte dell'azienda sanitaria locale, la comunicazione ai pub e quindi la psicosi tra i ragazzi. Devo dire che c'è stato un effetto, appunto, come dire, non so se definirlo gregge, tutti i genitori, soprattutto dei figli adolescenti, in questi giorni stanno prendendo d'assalto i centri di vaccinazione dell'isola, che devo dire stanno rispondendo molto bene. Poi, Giusy, tu dai anche dei consigli nel tuo articolo, cosa evitare di fare, no? Per evitare magari di bere nello stesso bicchiere, usare bicchieri di plastica, queste piccole norme. Sì, sono dei piccoli accorgimenti consigliati dagli epidemiologi, dagli esperti, dagli igienisti. Mi spiegavano appunto che è più facile il contagio nei luoghi che diciamo si costringono ad avere rapporti ravvicinatissimi, quindi nei pub, nei locali dove c'è tanta confusione, anche se sono all'aperto. Parli faccia a faccia con il tuo interlocutore in maniera molto ravvicinata, magari ecco, usi lo stesso bicchiere, la stessa forchetta. Questo è sbagliato, ecco, perché il virus, il batterio si trasmette appunto per via aerea e per via e tramite le secrezioni. Allora, sono dei piccoli accorgimenti evitare il contagio. Sì, quello che era un po' Topo Gigio che ci faceva vedere, bisogna lavare le mani, no? Professore Andreoni, ci sono queste regole di igiene semplici, bere dai bicchieri di plastica, evitare di scambiarsi magari forchette, soprattutto in questi grandi raduni. Però Lia, professore, ci fa una domanda. Come si è infettata questa ragazza che poi è morta, Susanna Rufi, o anche quest'altra a Palermo? Come si genera? È vero, c'è sempre la lotta contro le malattie infettive, i batteri e i virus evolvono, però in questo caso perché c'è questa recrudescenza della meningite? Sì, io vorrei fare una premessa alla giusta domanda dell'ascoltatrice. Diciamo, non dobbiamo neanche troppo demonizzare i luoghi di aggregazione dei ragazzi, no? Cioè, ovviamente in Sicilia, come il resto dell'Italia, tantissimi ragazzi si ritrovano all'interno di locali, discoteche, pub e quant'altro, e i casi sono del tutto eccezionali, no? Quindi questo per dire che comunque siamo di fronte a una malattia che, se Dio vuole, determina sempre una numerosità di casi sempre molto limitata. Per quanto riguarda invece la domanda, esistono i cosiddetti portatori sani, cioè esistono tante persone, questo è stato ormai studiato, è stato dimostrato, che portano il meningococco in gola, quindi sono dei portatori sani. Poi questo meningococco, passando da persona a persona con le modalità che anche la giornalista stava indicando, in alcune persone trovano una predisposizione a fare la meningite, in altri casi è il batterio stesso che, passando da persona a persona, diventa più virulento, più aggressivo, più cattivo, e questo poi determina il singolo caso. Ma non è detto che quella persona che ha avuto la meningite, trasmettendo il meningococco ad un'altra persona, determini in quest'altra persona la meningite. Cioè, questo è un fatto, diciamo così, che in qualche modo ci aiuta a difenderci dal meningococco. Dalla peste nera nel 1300 ad oggi, quanto sono cambiati i virus, quanto sono cambiati i batteri, che sono diventati sempre più aggressivi? Che cosa bisogna fare per cercare di arginare il pericolo? Beh, è una domanda difficile. Ovviamente le grandi epidemie che esistevano una volta si sono molto ridotte grazie all'uso dei vaccini, all'uso di antibiotici sempre più efficaci e quant'altro. È interessante vedere che poi le modalità di trasmissione, no? La peste nera che colpì gran parte dell'Europa e non solo l'Europa alla fine del 300 era dovuta ai viaggiatori, ai pellegrini che si spostavano da una parte all'altra del mondo. Ecco, questo sistema è ancora valido oggi. I batteri prendono l'aeroplano e non devono più viaggiare troppo a lungo per arrivare. È quello che si può fare. Certamente l'arma migliore per combattere i batteri sono gli antibiotici, e quest'arma sta diventando un'arma spuntata, anzi sta diventando un'arma pericolosa, perché l'abuso degli antibiotici, come abbiamo detto tante volte, ha determinato la resistenza di alcuni batteri, quindi alcuni batteri sono diventati resistenti agli antibiotici, quindi non abbiamo più armi per sconfiggerli. Cosa fare? Innanzitutto usare bene gli antibiotici, ecco, questo è un qualche cosa che ormai abbiamo imparato, perché usarli troppo vuol dire rendere più facile la vita a batteri. Grazie al professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e presidente della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali, Baldo Gucciardi, assessore regionale alla salute Regione Sicilia, ci chiedono: ma i migranti sono un pericolo? E visto che voi, essendo in Sicilia, siete la prima isola di approdo dei migranti, avete registrato un aumento di malattie infettive proprio dovuto a queste persone che scappano, ricordiamo, dalla fame e dalla miseria, ma forse anche dalle epidemie? No, sfatiamo questo che potrebbe diventare, come dire, pericoloso. Un crinale anche un po' razzista. Beh, assolutamente sì. Noi abbiamo accolto centinaia di migliaia di migranti, come dire, con un lavoro encomiabile sui moli, attraverso le motovedette della Guardia Costiera, delle forze dell'ordine, davvero con rischi limitatissimi. Non ci sono stati casi di criticità nei percorsi assistenziali. I nostri operatori sanitari del Servizio Sanitario Pubblico e volontari sono stati davvero straordinari, tant'è vero che non si è verificato alcun caso in Sicilia, e i casi di malattie infettive, soprattutto di TBC, sono stati assolutamente circoscritti all'interno dei reparti di malattie infettive dei nostri presidi ospedalieri, per cui non c'è assolutamente alcun collegamento. Dobbiamo insistere con le vaccinazioni, con, come dire, il recupero di questa volontà verso le vaccinazioni, e purtroppo false informazioni gli ultimi anni hanno determinato un abbassamento del livello di vaccinazione, da qui nasce un pericolo che non ha nulla a che vedere con i migranti. Giusy Spica, giornalista di Repubblica di Palermo, ti rivolgo sempre la stessa domanda. Nella tua esperienza, anche nei centri di accoglienza, intanto ti faccio una domanda più scomoda, non tanto se c'è una recrudescenza delle malattie infettive, ma quali sono le condizioni igieniche, perché molto spesso poi le malattie infettive vanno di pari passo con condizioni igieniche scarse. Nei centri di accoglienza, sì, mi dicevi. Dunque, come diceva l'assessore Baldo Gucciardi, non c'è un'emergenza malattie infettive fra i migranti. È pur vero che sono spesso saltati agli onori della cronaca casi di ispezioni dei nassi in alcuni centri di accoglienza, più che altro nei centri temporanei, nei cosiddetti CAS, non quelli autorizzati dal Ministero, delle ispezioni che hanno portato alla luce dei casi circoscritti. Comunque in cui i migranti versavano in condizioni igienico-sanitarie precarie. È chiaro che il sovraffollamento di questi centri genera sempre delle difficoltà nella gestione. Anche recentemente al centro di Lampedusa l'anno scorso è stato investito da questo scandalo dei migranti disinfettati con le pompe, ecco, contro la scabbia. Quindi insomma, però bisogna sempre fare attenzione, l'attenzione in Sicilia è alta, questo per rassicurare anche i nostri radioascoltatori. Linea alla regia. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? E noi cambiamo argomento perché parliamo di sicurezza in mare. Ieri c'è stato un uomo ucciso in Francia da un motoscafo e vogliamo capire perché si verificano queste tragedie, ma come è possibile evitarle, perché ci sono delle regole fondamentali da seguire per la sicurezza in mare. Adesso quello che vogliamo capire è come è stato possibile, è successo a 300 metri dalla costa, è successo in Francia e dobbiamo riuscire a capire attraverso l'associazione Bagnini, attraverso anche i sub, perché quest'uomo era un sub, quali sono quelle piccole accortezze per chi sta in vacanza per passare una vacanza tranquilla e per comprendere quello che succede. Parliamo con Manuela Albertini, vice direttrice nazionale FIAS, proprio Federazione Italiana Attività Subacquee. Che cosa deve fare un sub quando va in mare? Quali sono le regole per non sgarrare, per stare tranquillo, per stare in sicurezza? Allora, buongiorno a tutti. Un sub non è mai tranquillo in mare perché nonostante possa adottare tutte le misure previste da un DPR molto antico che risale ancora al 1968, il vero problema sono i natanti. Il subacqueo in immersione deve portare con sé un galleggiante con una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca che sia visibile da almeno 300 metri, oppure questa bandiera può essere issata su un'imbarcazione di appoggio come probabilmente aveva la vittima dell'altro giorno. Il problema vero è che le imbarcazioni molte volte non rispettano questi limiti di distanza, pertanto pur i subacquei adottando tutte le misure di sicurezza previste molte volte vengono travolti dalle eliche dei motori. Questo è un problema ricorrente soprattutto perché per condurre determinati tipi di imbarcazioni, quali possono essere i natanti, non è obbligatorio il possesso della patente nautica. Pertanto chiunque può comprare un'imbarcazione con un motore con una determinata cilindrata e mettersi in mare e quindi non conoscere quelle che sono il codice della navigazione e tutte le normative che regolano la sicurezza in mare. In questo caso, per esempio, l'uomo era in mare a 300 metri dalla costa ed è stato tranciato da un gommone. Esatto. Qual è il limite delle acque costiere affinché i motoscafi o i gommoni non entrino? 200 metri? Allora, esattamente, i gommoni devono stare a 200 metri dalla costa, i gommoni e le imbarcazioni in genere. Poi in realtà però ogni conduttore di imbarcazione deve consultare le ordinanze locali delle capitanerie di porto perché possono esserci ordinanze più restrittive oppure possono esserci parchi marini, zone di aree marine protette, per cui in realtà bisognerebbe conoscere bene la zona dove si stava immergendo il subacqueo, ma di fatto a prescindere da quello le imbarcazioni, nonostante non ci siano dei limiti, devono attenersi a 300 metri dalla segnalazione del subacqueo stesso. Ecco, in questo caso le dico Andrea Brusca, il cinquantenne, sì. Poi era un imprenditore anche famoso, certo. Era in apnea in una battuta di pesca nel comune di Bonifacio e sarebbe stato trovato da un comune proprio mentre era a 300 metri dalla costa. Quindi c'è un caso un po' al limite, poco dopo il limite per i natanti, però magari anche in un luogo dove forse i natanti dovrebbero comunque andare più calmi, più tranquilli. Questo certamente. Ecco, tengo in considerazione che il limite è di 300 metri dei natanti, cioè la boa deve essere visibile da 300 metri, ma il subacqueo non deve allontanarsi dal raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Quindi, che è il palloncino che sta sotto. Esattamente. Perché lui tiene un pallone e lui sta sotto, no? È attaccato a un filo. Il pallone sta visibile a livello dell'acqua mentre lui sta sotto. Quindi certo. Il filo deve essere 50 50 metri non di più, perché nella sua esperienza ci sono molti sub che usano dei fili lunghissimi? No, allora il filo può essere anche più lungo, non è un problema della lunghezza del filo, perché il filo può determinare anche solo semplicemente la profondità. Il problema è che il subacqueo in immersione non deve essere più distante dei 50 metri dal raggio, quindi non sulla verticale ma dal raggio di questa, oppure questo segnale può non essere un palloncino, tant'è che si può issare la bandiera sul gommone o sull'imbarcazione, funge da segnale al pari del palloncino. Il problema è che il subacqueo, quando è sott'acqua, se ha il palloncino con sé e se lo trascina dietro nella sua battuta di pesca, ha la certezza matematica che lui è esattamente nella verticale del palloncino. Se invece la bandiera subacquea è issata all'imbarcazione, quando il subacqueo è sott'acqua non ha la percezione della distanza dei 50 metri dalla linea di verticale, quindi è sempre meglio portarci al seguito il palloncino, nonostante si possa anche scegliere di mettere la bandiera sull'imbarcazione. Diamo il benvenuto al comandante Filippo Marini, capitano di vascello, portavoce della Guardia Costiera. Ogni anno, purtroppo, comandante, ci ritroviamo a parlare di morti in mare, di sicurezza, di sub che sono stati tranciati, come in questo caso in Corsica, da delle imbarcazioni. Qual è la sua esperienza e che cosa non fanno i sub che dovrebbero fare magari? Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. E intanto io direi che la situazione non è così grave. La Guardia Costiera da 25 anni, dal 1991, ogni estate mette in campo un'operazione che si chiama Mare Sicuro, dove 3.000 uomini e donne, 300 mezzi navali vigilano per la sicurezza e la legalità lungo le nostre coste e sulle nostre spiagge, per i milioni di bagnanti che scelgono appunto queste mete. È ovvio che ci sono anche dei comportamenti magari pericolosi, come quelli che si sono verificati in Corsica e poi conclusi in tragedia, che si cerca di prevenire. Sentivo prima nell'intervista le distanze, eccetera, queste sono importantissime. Ai sommozzatori, ai sub ogni anno e agli diving, quindi i centri che danno assistenza, noi raccomandiamo sempre di controllare tutta una serie di fattori prima di andare a praticare questo sport: la piena efficienza fisica prima di immergersi, il controllo delle dotazioni, erogatori, GAV che siano perfettamente funzionanti, mai immergersi soli, soprattutto nelle immersioni più tecniche, e segnalare in maniera estremamente visibile, quindi bandiera rossa con striscia diagonale bianca su galleggiante visibile a notevole distanza, la propria presenza, perché come sapete in mare quando si naviga c'è anche un problema di luce, di sole, di riflesso anche per chi porta le barche, quindi questi segnali devono essere assolutamente visibili. Dopodiché la Guardia Costiera ci mette il suo impegno non solo in mare ma anche nei grandi laghi, il lago di Garda, il lago Maggiore dove ci sono presidi navali, e mette a disposizione dell'utenza il numero per le emergenze in mare che è il 1530, che viene riportato sia sul nostro sito sia sulle autostrade nei pannelli elettronici a messaggio variabile, quindi per i turisti che si recano nelle località di vacanza, sul sito, sui social network, quindi si tende ad attuare un'importante campagna di prevenzione per fare in maniera tale che i cittadini affrontino con estrema prudenza e virtuosità il mare, virtuosità anche nell'approccio con l'ambiente, con l'ecosistema marino che deve essere sempre tutelato. Ecco, in questo caso per esempio si parlava di pesca in apnea, che ricordiamo la pesca è vietata con le bombole in Italia, giusto comandante? Assolutamente sì. Allora, è una lotta impari. Basta eliche, navigazione solo ad idrogetto, suggerisce Giacomo con i suoi sms. E abbiamo in linea anche Dean Bencic, presidente dell'associazione Bagnini di Salvataggio, che ha sede alla Dispoli vicino a Roma. Buongiorno, nella sua esperienza di salvatore di vite, che cosa va storto quando un bagnante viene tranciato da un motoscafo o da un canotto? Il problema penso che sia, come dappertutto, rispetto delle regole. Il fatto che i bagnanti spesso e volentieri, quando iniziano le vacanze, escono dagli uffici impreparati, si buttano in acqua, vanno oltre le loro possibilità, o prendono solo il soggiorno o dopo un abbondante pranzo si mettono a nuotare, alla fine nascono dei problemi, si trovano delle stazioni a quali certe volte è difficile uscire. Per questo esiste in Italia un obbligo di avere ogni 100 metri di spiaggia un bagnino di salvataggio, in modo che qualificato e che possa intervenire in queste azioni. Spesso e volentieri sono delle distrazioni che si pagano anche con la vita, perciò penso che tutti quanti dovrebbero rendersi conto di cercare di rispettare quel minimo di regole per non mettere in difficoltà sia se stessi che gli altri. Quindi lei ci sta dicendo, e ritorniamo poi subito al comandante, prima abbiamo però un radioascoltatore, lei ci sta dicendo attenzione anche dalla spiaggia, c'è gente che poi si fa il bagno dopo aver fatto un pasto super abbondante e quindi ha una congestione. Queste piccole regole non sono praticamente mai avvertite. Maurizio da Vicenza, qual è la sua esperienza e che cosa vuole chiedere? La mia esperienza è questa, che per mare si vedono persone veramente alla prima esperienza su motoscafi con 40 cavalli dove non ci vuole né patente né autorizzazione, barche che vanno 30 nodi, significa quasi 200 all'ora per strada con una macchina. È come se uno guidasse una macchina senza aver mai avuto la patente, questi sono i risultati. Non ci vuole le distanze, il palloncino, non contano niente. Contano il fatto che le persone sono senza esperienza e vengono noleggiate barche con 40 cavalli a persone che non sono mai salite su una barca e non hanno magari la patente nautica. Non ci vuole niente. Comandante Marini, è così? Che cosa occorre per guidare un canotto oppure una moto ad acqua? Noi dobbiamo partire dall'attuale impianto normativo. È prevista la patente per determinati tipi di imbarcazioni, patente entro le 12 miglia o senza limiti, e ci sono delle imbarcazioni natanti che possono essere condotte anche senza la patente nautica. In questo caso, come spesso cerco di ricordare, deve valere una importante regola, quella del rispetto degli altri. Se le persone rispettano gli altri, non dico che non servono le leggi, perché le leggi servono sempre, ma si parte già con un buon prodotto, cioè rispettare gli altri significa cercare di moderare le velocità, quindi non i 30 nodi di cui parlava giustamente l'ascoltatore, perché in questi casi quando la Guardia Costiera verifica violazioni o comportamenti pericolosi interviene in maniera assolutamente forte nei confronti di queste persone, come anche nel caso di moto d'acqua che vengono utilizzate non nella forma corretta ma facendo la gincane tra le persone, in questo caso e sono severissime le sanzioni che vengono applicate, quindi le persone rischiano parecchio. Comandante, Guido da Varese ci chiede, ma viene fatto l'alcol test sui motoscafi? Perché siamo in vacanza, si va in mare, si beve una bottiglia di vino mentre si mangia a bordo. È successo che per esempio voi abbiate verificato l'uso di alcol? Ma guardi, in situazioni dove vengono riscontrati comportamenti, diciamo così, un pochino sospetti, guide, una guida particolarmente scorretta o altro, le persone vengono fermate e vengono fatti tutti gli accertamenti del caso a 360 gradi per capire il perché si verificano determinate cose, come soprattutto la questione della velocità, su cui c'è l'attenzione molto alta nelle aree marine protette o in prossimità della costa o verso l'accesso ai porti. Ho parlato all'inizio, vi ho detto 300 mezzi navali e 3000 uomini, certo non abbiamo il dono dell'ubiquità, ma insieme con tutti gli altri soggetti che sono in mare cerchiamo di fare il massimo. In una penisola, Delia da Roma, brevemente. Salve, volevo dire che per esempio la mia esperienza mi dice che intorno a Terracina c'è in particolare un canale pieno di natanti motoscafi che escono dal canale molto velocemente, ne non ho mai visto rispettare la distanza di 300 metri, al massimo sarà una distanza di 100 metri. Io per me ogni volta quando guardo dico se non succede niente, perché ci sono anche i natanti, non ci sono solo i subacquei, è un pericolo costante, non ho mai visto nessun controllo. Comandante, rimanga con noi, linea alla regia e ritorniamo tra breve. Ma cos'è quest'estate? Continuiamo brevemente a parlare di sicurezza in mare e tratteniamo per l'ultima domanda il comandante Marini, capitano di Vascella, portavoce della Guardia Costiera. Lei ha parlato di velocità. Vogliamo capire qual è il limite di velocità, comandante, dei natanti? All'inizio qualcuno parlava, non so chi era l'intervistato, di ordinanze. L'ordinanza è un provvedimento normativo che viene emanato dai comandanti di porto, che le nostre sedi territoriali sono più di 300 distribuite lungo 8.000 km di coste. Con queste ordinanze viene regolamentata la navigazione, vengono regolamentate le distanze a cui si può navigare dalla costa, distanze che sono in funzione di tanti fattori, l'orografia della costa, la profondità, e quindi può cambiare da zona a zona. E la stessa cosa riguarda le velocità. Ci sono aree in cui vengono prescritte determinate velocità che magari il divieto è più, la previsione è più restrittiva, quindi dipende da dove ci troviamo. Dipende da dove ci troviamo. Grazie al comandante Filippo Marini, buon lavoro, capitano di Vascella, portavoce della Guardia Costiera. E Dean Bencic, presidente dell'Associazione Bagnini di Salvataggio di Ladispoli. Abbiamo sentito Delia da Roma che diceva: io vedo tra Terracina queste imbarcazioni in realtà uscire da un canale dove c'è un porto e andare a velocità molto molto sostenuta già dalla costa. Lei nella sua esperienza vede queste cose? Sì, si vedono soprattutto nella prossimità dove si noleggiano questi mezzi, e ovviamente uno si prende una moto d'acqua, non vede l'ora di uscire, di andare alla velocità delle emozioni, diciamo. Il fatto è che mi soffermo sempre nel rispetto delle regole. Diciamo che mare si può paragonare come le nostre strade, dove ci sono incidenti ogni giorno, che non dovrebbero succedere perché uno sta in vacanza e va lì per divertirsi. Comunque avere la patente è giusto, ma non garantisce che non succedano questi incidenti. Dipende molto dalla persona, come ha detto il collega del capitano del porto, di rispetto delle regole e di sapere le proprie capacità e di poter rispettare comunque le regole in ogni caso, sia per quelli che guidano dei mezzi, sia per gli stessi bagnanti, che poi sono più a rischio che certo. Sono in acqua. Certo. Gianfranco da Rovigo, un radioascoltatore, qual è la sua esperienza su questo tema? Sì, buongiorno a voi. Senta, io sono un turista che da 12 anni va regolarmente in quel di Capo Vaticano, che è il promontorio a sud di Tropea. C'è una baia che si chiama Baia Grotticelle, dove le barche, gli scooter d'acqua e quant'altro fanno di tutto a 50, 60, 70 metri da chi si bagna, insomma, da chi fa il bagno. E in questi 12 anni sono stato io a chiamare una volta la capitaneria di porto, perché c'era un ragazzo con uno scooter d'acqua che faceva lo slalom sui natanti. Questo era quello che stavamo dicendo. E l'hanno risposto? Le hanno risposto? Sì, sono venuti, ma su attivazione, non di loro iniziativa. Di loro iniziativa in 12 anni non li ho mai visti. Questo è il problema. Quindi dice il comandante Marini, ha detto: non ho il dono dell'ubiquità, però magari certe. Ma avrà dei sottoposti, avrà io sono un ex sottufficiale dell'esercito. Voglio dire, esistono i sottoposti. Insomma, lei dice: attenzione. Comunque è anche vero che lei, come sottufficiale dell'esercito, ha fatto il suo dovere. Anzi, qualsiasi radioascoltatore che magari vede queste infrazioni, è giusto che chiami la capitaneria di porto per anche aiutare la guardia costiera. Che è successo? Non lo so. Che mai fatto? Non lo so. So soltanto che se te ne vai, io morirò. Che è successo? Non lo so. Che mai fatto? Non lo so. So soltanto. io morirò d'amore. Wow, io morirò d'amore. È successo a tutti quanti noi, è successo nella nostra vita a chiunque, essere piantato, mollato, abbandonato all'indomani delle vacanze estive, all'indomani delle ferie. Magari si era progettato un viaggio, oppure si facevano sogni a lungo termine, dopo l'estate magari mi chiederà di sposarlo, o chissà, è successo, insomma, il famoso due di picche, per dirla in breve. Che cosa succede quando ci lasciamo? E soprattutto che cosa succede quando veniamo lasciati poco prima delle vacanze? Noi abbiamo in linea Davide Schioppa, un life coach specializzato in love coaching. Va bene, tutto molto bello dal punto di vista anglosassone, ma lei che cosa fa in italiano? Salve Elisabetta e buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno, di Radio 24. Allora, io in italiano che cosa faccio? Bene, molto semplice, aiuto le persone ad affrontare un cambiamento. E quello che lei diceva poco fa, capita di essere mollati, oppure capita di decidere di lasciare, di uscire fuori da una storia. Beh, in maniera molto semplice, tutto questo è un cambiamento, significa affrontare un cambiamento. Nel primo caso, nel caso in cui veniamo lasciati, c'è un cambiamento che dobbiamo affrontare con una reazione. Nel caso in cui decidiamo noi di uscire fuori da una storia, c'è un cambiamento che decidiamo noi di affrontare e quindi dobbiamo decidere quali sono le fasi del cambiamento che dobbiamo apportare alla nostra vita. Ecco, le dico, si ricorda un po' di anni fa, c'era sempre questa maglietta molto carina, single per scelta di un altro. Ecco, che cosa dice a chi è single per scelta di un altro? Single per scelta di un altro non è mai scelta di un altro. Tutto quello che ci succede nella vita è assolutamente scelta nostra. Tutto parte dalla consapevolezza di noi stessi e tutto parte da quello che noi decidiamo di voler ottenere dalla vita. È difficile che qualcun altro possa interferire nella nostra vita così tanto da incidere e lasciare il segno così tanto. Quello che succede è merito nostro o è colpa nostra nella vita. Poi sì, c'è una minima parte, mettiamo un 5% di quello che ci succede che è colpa o merito del destino. Però tutto quello che riusciamo ad ottenere o quello che non riusciamo ad ottenere credo che dipenda esclusivamente da noi e dalla nostra forza di volontà. Qual è la sua formazione? Perché è arrivata a fare il Love Coach? Allora, il Love Coach è una cosa un po' più esasperata del Life Coaching. Io sono un Life Coach, ho studiato coaching umanistico, mi sono approcciato al mondo del coaching umanistico dopo averlo provato su me stesso. Che, diciamo, l'allenamento, no? L'allenamento all'amore, l'allenamento alla vita, no? Cerchiamo di far capire a tutti. Il coach, guardi, lo faccio l'allenatore in maniera molto molto semplice. Un coach è qualcuno che ti fa ascoltare, ti fa vedere quello che nella vita tu non vuoi ascoltare e non vuoi vedere per arrivare dove tu hai sempre sperato di arrivare. Questa è una definizione molto chiara di quello che fa un coach. Quindi io mi sono lasciata, io mi sono lasciata, vengo da lei col cuore infranto e dico: è colpa sua, mi ha tradito con un'altra. No, lei mi dice: no, non è solo colpa sua. No, io in realtà non dico non è solo colpa sua. Quello che faccio delle domande, cerco di fare delle domande più o meno potenti per far scoprire alla persona che viene da me delle consapevolezze e probabilmente poi si arriva alla fine di queste domande a delle consapevolezze diverse da quelle con cui si è arrivati da me. Io non do consigli, non dico come fare perché altrimenti direi agli altri di vivere la vita che vivrei io. Io faccio soltanto delle domande e aiuto le persone ad arrivare loro stesse a delle risposte. La cosa che riusciamo a fare meglio è darci noi stessi da soli dei consigli. E quello che posso fare è veramente riflettere la realtà e fare da specchio. Tante volte noi siamo indulgenti con noi stessi, tendiamo a giustificarci e quello che non va bene in questi casi è essere troppo indulgenti con noi stessi, giustificarci troppo, dare troppo la colpa agli altri. Spesso la colpa è nostra o spesso siamo noi che non sappiamo affrontare al meglio le situazioni. Ulisse ci chiede: lei è laureato in psicologia oppure ha fatto solo dei corsi di training? Io sono laureato in economia e faccio anche un altro lavoro, mi occupo di business, ma per quanto riguarda il coaching, ho studiato coaching umanistico alla scuola di coaching umanistico, non sono laureato in psicologia. Quindi è una tecnica? È una tecnica. Sono delle tecniche. Quali sono? Cioè, io... La psicologia sono due robe diverse. Io arrivo da lei, lei che cosa mi fa fare? Mi fa dare i pugni al sacco da boxer? No, sono un personal trainer che non allena gli addominali, ecco, io sono un personal trainer che allena la mente. Gli esercizi che fa un coach sono degli esercizi mentali, servono per ragionare, per vedere la vita in maniera più fredda e più oggettiva, senza essere troppo coinvolti dai fatti che ci succedono. Quindi gli esercizi che si fa durante una sessione di life coaching sono degli esercizi puramente mentali, sono degli esercizi di riflessione, sono degli esercizi di ragionamento. Quindi una persona che le dice ho fatto vedere, non so, Heimat, 10 puntate in tedesco, due ore di film a puntata, perché mi ha lasciato, lei dice forse è meglio se si vede un po' dentro. A settembre ci sono più persone, donne, uomini col cuore spezzato, oppure in primavera? Qual è il periodo dell'anno in cui si spezzano più cuori? Ma i cuori si spezzano tutto l'anno, non c'è un periodo dell'anno nel quale si spezzino cuori più di un altro periodo. Bisogna cercare di non farli spezzare questi cuori, bisogna cercare di essere capaci di amare se stessi. Questa è la base per far continuare le relazioni. Se noi siamo in grado di amarci, riusciamo ad amare gli altri, riusciamo a farci amare dagli altri. Tante volte noi non siamo in grado di amare noi stessi, tante volte ci perdiamo, e questo credo che possa essere il motivo di tante storie che finiscono. Perdiamo di vista noi stessi e ci dedichiamo esclusivamente all'altro. Nel momento in cui noi perdiamo di vista noi stessi, dimentichiamo di amarci, e perché le altre persone dovrebbero amarci? Vengono lasciate più le donne o più gli uomini? E questo non glielo so dire, le so dire che i miei clienti sono prevalentemente donne. Però io credo che ci sia anche una timidezza ancora da parte degli uomini di affrontare determinati temi e di lasciarsi andare a delle chiacchiere, a degli esercizi di life coaching, perché magari sono un po' più convinti che sia roba da donne. Io comunque nel mio parco clienti ho quasi esclusivamente clienti donne. Ringraziamo Davide Schioppa, life coach, love coach, insomma allenatore per il cuore, per la mente. Io ringrazio la mia splendida redazione, Maurizio Lollis, Sylvie Boccaletti e Alessandro Longoni. Vi do appuntamento domani, come al solito, alle 8:15, linea al giornale radio con le ultime notizie.